allora parlo con la Zanzara, Radio ciao 24. Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che tra l'altro... Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, niente male, cazzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. You'll take another piece of me to satisfy your intellectual need. Do you want action? Io amo la zanzara. Mi sembra di essere tornato negli anni 60, cazzo, quando era più importante un programma radio che i programmi TV. Io non vedo l'ora di ascoltare il podcast alla mattina quando vado al lavoro della zanzara, cazzo. Grandi, porca troia, grandi. Anche dopo delle sambuche, delle birre, cazzo grandi, vi amo. Questo è sempre per tirarci un po' su di morale, eh? Non è che ci piacciono i complimenti, non ci piacciono affatto i complimenti, però ogni tanto ci tiriamo su di morale quando ne abbiamo bisogno. Parenzo, con che iniziamo stasera? Con cosa iniziamo? Beh, te lo dico io, te lo dico io, te lo dico io. Mi raccomando, carico, eh? Carico con bestia stasera, come direbbe l'amico Ruffini che ho incontrato ieri sera. Amico Ruffini, che presto verrà qui alla Zanzara. Beh, in una festa a Milano, ricchi premi, ricchi premi e cotillon, come si dice. Pieno di donnine. Ma sì, certo, nelle feste ci sono donne, uomini. Postriboli, ma quali postriboli? Quali postriboli? Carico a bestia, ti voglio stasera. Il personaggio. Il personaggio si chiama Carlo Pannella. Voi non dice niente perché non è Pannella. Non è Pannella. Beh, non dice niente, il insomma, più famoso Pannella. Hai più, non agli dice nulla. Ascoltatori, no, non dice nulla. Se vai. Raffinati, no, dici sicuramente qualcosa. Gli ubriaconi, puttanieri. No, se vai in giro nei bar. Se vai in giro nei bar. Se vai in giro sugli autobus con la gente normale, gli operai. Che vanno sugli autobus e dici tutto, scusi chi è Carlo, ma perché non hanno tempo di sapere chi è Carlo Pannella. Signor Carlo Pannella è un giornalista, un ex militante dell'estrema sinistra, tra l'altro, no? Beh, no, questo che c'è, ha lavorato a Mediaset per tanti anni. Appunto, è passato dall'estrema sinistra a Mediaset, come hanno fatto tantissime persone, peraltro. Non è una cosa nuova. Una bella, è stato un grande compagno. Appunto, grande compagno prima, poi berlusconiano. Vabbè, ma non lo dico per... Militante dell'estrema sinistra. Appunto. Quando ancora scendeva in piazza, quando i padroni non avevano radio e avevano paura. Momento. No, ho sentito finalmente che è tornato un urlo operaio all'interno dell'azienda. Molto bene. Da oggi comunico immediatamente che da qui all'elezione del nuovo presidente della Confindustria rompe sempre i coglioni. Sarà il presidente della Confindustria prossimo, sarà Mario Capanna. Ma non è vero, non è possibile. Perché i padroni devono cominciare a tremare. Allora sarebbe un ottimo segnale quello di aprire a gente come me, che ha già il vitalizio peraltro, metterlo a capo di questa combricola che si chiama Confindustria. Ma non è una combricola. E io sono a disposizione dei candidati, lo dico ai saggi, la signora Nieri, tutti i saggi che andranno ma a decidere. Quali saggi? Ma non ce ne frega un cazzo a noi. I saggi dovranno saggiamente decidere di mettere Mario Capanna alla guida di questi cosiddetti industriali. Capanna, per favore, vuole tornare ai campi e farsi un po' i cazzi suoi invece di introdurci ogni volta la zanzara? La prego. Allora, stavo dicendo, perché poi ogni volta mi fa fare delle deviazioni pazzesche, cioè è incredibile, Parenzo. Cioè, non mi apre il collegamento con Capanna. Mi apre il collegamento con. Non parla perché non parli. Parli perché parli. Vabbè, comunque questo è vero. Allora, basta. Carlo Pannella, cosa ha detto sugli stupri di Colonia? Ha fatto un paragone assurdo. Un paragone, a mio parere, assurdo. Io voglio bene al signor Pannella. Per carità, è una provocazione. Però, amico mio, come si fa a paragonare i cosiddetti stupratori di Colonia ai maschi siculi, ai maschi siciliani? Io sento già la voce di Mughini in sottofondo, la voce di Mughini, siciliano d'origine, che dice: caro Carlo, hai detto una grande cazzata. Dietro Colonia c'è la dinamica del branco, un gruppo di maschi, ubriachi, testosterone, liberi, eccetera, che fanno le porcate che fanno i maschi e che facevano in Sicilia e che forse fanno ancora in Sicilia. Lei conosce bene certe foto, ci sono delle foto clamorose. Fanno, Sicilia. Fanno un po' ovunque, la foto clamorosa della Sicilia degli anni 50, la bella ragazza che passa e tutti i galletti dietro. E questo è una cosa orrenda. No, però scusa caro Panella, io non so che foto hai visto della Sicilia degli anni 50 con la bella ragazza e tutti i maschi intorno, ma non è che c'è stato all'epoca sicuramente avvenivano delle cose pazzesche. Lui peraltro dice anche oggi forse i maschi siciliani non è che circondavano le donne, le trattavano malissimo, magari le relegavano in casa, le lasciavano isolate, velate, non potevano uscire, non potevano guardare altri uomini. Ma non mi risulta che ci fossero stupri di massa, chiamiamoli così. No, non mi risulta, però mi posso anche sbagliare. Comunque, amici siciliani, se volete insultare Panella, siamo qui, Oppure magari siete d'accordo e volete appoggiarlo. Oppure se volete ragionare con noi su questo fenomeno. Ragionare, sì, che devi ragionare su una frase del genere. Che ragionare, c'è? Ma no? Che c'è da ragionare se su una frase? Qualche libro, qualche testo, qualche lettura sul ruolo della donna in Sicilia. Non lo so, se volete anche proporre questo, oltre a... No, incredibile. Ma non c'è da ragionare. Andiamo avanti. Ma scusami, abbi pazienza. Tu poi critichi Cruciani, no? Che poi sarei io. Adesso non vorrei parlare in terza persona. No, siamo al delirio dell'inizio settimana. Però del 18 di gennaio. Tu critichi Cruciani, però Carlo Panella, considerato che gli stupratori di Colonia sono come i maschi siciliani, e dai, io vorrei fare risentire però a uso e consumo dei militanti dei 5 Stelle e di tutti quelli che amano la politica, che amano le discussioni politiche, che amano Vittorione Sgarbi, eccetera eccetera, l'intervento dell'esimio professore qui alla Zanzara nella giornata di venerdì, quando la serata volgeva al termine, caro Parenzo, tutti noi eravamo un po' più rilassati, diciamo, no? Perché la settimana stava finendo, tutti stavi preparando alla puntata di, come cazzo si chiama, Fuori Onda, In Onda, In Onda da luglio. Per cui facciamo tutti quanti un carissimo auguro, questo lo dico senza ironia, in naturalmente. Bocca al lupo si fa in genere, tipo, auguri. Vabbè, è uguale, dai, per le prossime puntate. Grazie, in bocca al lupo. È uguale, dai. Va bene. È uguale, tu. Scaramanzia napoletana. Va bene, allora, signor Vittorio Sgarbi si è scatenato contro Grillo, Saviano soprattutto, e sulla questione di Quarto, cioè sul fatto che 5 Stelle hanno scaricato, hanno buttato al mare la sindachessa, non so perché, ho avuto un attimo di boldrinata. Ho avuto una boldrinite acuta per un secondo, uccidetemi vi prego, sindaco di Quarto, la signora Capuozzo, Rosa Capuozzo. Vittorione Sgarbi ha detto nell'ordine fascisti, nazisti, stupratori, islamici, rivolto in blocco a quattro persone, la triade dei 5 Stelle di Maio, Di Battista, Fico, Grillo e anche Saviano, soprattutto Roberto Saviano, che non merita la scorta, che non deve rompere il cazzo, eccetera eccetera. Ci sono due stupratori che sono Saviano e Grillo, i quali stabiliscono di avere proprietà del loro partito, della loro ideologia. Questa cioè, è buona, sì. Se cominciano a pensare se uno è indagato o meno, se hai il sospetto che tu sia colpevole, non hai niente, ti caccio perché sei mia. I voti li ho presi io e tu sei una stronza che io mando a fare in culo, dice Grillo. Sì. Che la manda a fare in culo. Saviano ancora peggio, che non è neanche il padrone del partito. È uno che ha l'esclusiva dell'anticamorrismo. Della morale, sì. Quindi della lui dice fuori, ma che cazzo vuoi, chi cazzo sei? Copiatore di libri, che non hai fatto nulla di originale che hai una finta scorta perché ti devono garantire, ma chi se l'ammazza quello? Chi lo ammazza Saviano, dice Sgarbi, hai una finta scorta, la camorra non gliene frega un cazzo di ammazzare Saviano, così detto Vittorione. Io ripeto tutto questo, io quello che ha detto Sgarbi, inutile che ve lo dico, lo condivido secondo te a quanto, Parenzo? Che percentuale? Drammaticamente al 100% temo, ma in realtà mi dispiace, bisogna fare i conti con le minacce mafiose reali che obbligano un signore scrittore, che può piacere o meno, perché questo non è il tema. Però finiamo di sentire Vittorione, che dici? Vittorio Pisani, grandissimo, che poi è stato cacciato in Mi ricordo. Il capo della scuola ha detto: la scorta Saviano è inutile. è un di più così che si dà sul piano folcloristico. Pensiamo molto più a rischio noi poliziotti. Scusa. La scorta è comoda per i semafori, perché lo superi i rossi, altro che non rompano il cazzo. No, quello, io sono vittima della scorta, vivo sotto tutela, ma vaffanculo! La scorta di Saviano è inutile, con cui lui fa tutta la sua campagna per dire io soffro la scorta, sì, sì. No, che ho avuto pure io la scorta, non è quando vai a scopare la scorta è sotto il letto, quindi non faccia la vittima di niente. Ma che c'è tra lo scopare? È un eroe dell'antimafia, quindi lui deve decidere il bene e il male di Quarto. Ma che cazzo vuoi? Non rompete il cazzo, anche per voi c'è la democrazia, e quella ragazza resiste, fa la resistenza contro tre fascisti e un nazista che sarebbe Grillo, che sta lì in alto a comandare, ma sono accompagnato dal suo collega Stalin, che si chiama, che era, come si cazzo si chiama, Saviano. Per fortuna questa qua ancora non si è dimessa e resiste là sulle barricate. Ma deve resistere, ha ragione Renzi in questo, perché i tre si mettono lì, tre dell'Apocalisse, abbiamo deciso di ma chi cazzo siete? Ma rispettate la democrazia, l'hanno votata, andate a fare in culo. Cioè 5 Stelle non sono al di sopra della democrazia. Non è che hanno delle regole speciali, perché noi abbiamo le regole che appena uno è sospettato si deve dimettere. Vaffanculo! La regola si chiama Costituzione, non il partito di merda che stabilisce che tu devi andare quando hai fatto una scorreggia. Il traffico è il problema. La Zanzara. Allora ragazzi, fra poco apriamo quelle che Parenzo chiamerebbe le fogne, e io chiamo semplicemente apriamo le linee, come le si diceva. Pance. Apriamo le pance. No, apriamo le viscere. Vuoi. Una volta si diceva le linee, no? Questa espressione orrenda. Apriamo le linee telefoniche, la diretta, il filo diretto. Per tanti anni c'è stata espressione tutte terribili, agghiaccianti. Però voglio dirvi qualcosa. Sentiamo la sinistra. La sinistra è passata. Si diceva una volta la sinistra al caviale, alla sinistra al cinghiale. Lo so, l'hanno scritta in tanti sul web in queste ore. Questo perché? Perché un gruppo di pseudo cosiddetti intellettuali, scrittori toscani soprattutto, hanno fatto un manifesto contro l'abbattimento dei cinghiali. Io non ne posso più di queste cose qua. Allora, tra questi c'è Latamaro, Bollani, David Riondino, l'amico David Riondino, simpaticissimo, lo conosco bene, non so cosa gli è preso, in Panariello addirittura, Luigi Lombardi Vallauri, che è un filosofo, che quanti non conosco. Sono questi qua? Diverse, Sandro no, Veronesi. Ma questo qui gli ha fermato, Rudici Ballardi, quanta gente è questa? Non so, quattro persone in una. Quante sono? Luigi una firma? Lombardi Vallauri. Beh, cazzo, uno fa prende una fila, prende quattro persone però. Dice ha firmato Luigi Ballardi, Come si chiama il nome di questo? No, Dacia Maraini. Ogni scusa è buona per fare strage di animali selvatici, perché qualche regione vuole giustamente abbattere i cinghiali, che sono pericolosissimi. Ora, nessuno di questi signori che mi fanno veramente girare ma i coglioni. Ma non dire la sinistra contro i cinghiali. La sinistra difende i cinghiali. No. Perché non è vero? Perché in regione Sicilia. La sinistra intellettuale. La sinistra intellettuale. La sinistra che governa la Toscana. Infatti è una cosa diversa. Regolamenta la caccia al cinghiale. Infatti è una cosa diversa. Tante compagne, tanti compagni vanno a fare la caccia al cinghiale. Ma io sto dicendo un'altra cosa, infatti. Sto dicendo intellettuali, artisti, la maggior parte della sinistra. Sinistra storica, lascia perdere le definizioni, che sono passati dalla sinistra al caviale alla sinistra al cinghiale, perché fortuna, per loro sfortuna forse, o per loro fortuna, non lo so, non hanno mai lavorato in un campo, non hanno mai fatto un incidente, meno male naturalmente, con un cinghiale. Ci sono decine e decine, sono migliaia di incidenti stradali provocati dai cinghiali, chiaro? E nessuno vive in mezzo ai cinghiali di questi signori qua, perché vivono la maggior parte tutti in attici, appartamenti molto cari, eccetera, eccetera, eccetera. E dunque si permettono di dire non bisogna abbattere i cinghiali, bisogna fare in modo di risolvere la questione in altre maniere. Capito? Difficile discutere con un compagno cinghiale. Su. Scusi, signor cinghiale, può passare al perimetro della mia proprietà? Vanno questo è difficile. Abbattuti, sono troppi, vanno ammazzati, non c'è un altro modo, non c'è il ripopolamento. Alcuni hanno scritto che ci vogliono dei predatori, capito, per ucciderli, dei predatori invece di fare un'inutile strage. Bisogna armarsi, per quelli che lo possono fare, anche i cacciatori, e sparare ai cinghiali, ucciderli, farli fuori. non succede nulla, non succede niente, non rompete i coglioni intellettuali, volevo dire dei miei stivali, ma io non ho gli stivali. Io però una telefonatina all'amico Panella la farei, che dici tu? Proviamo, certo. Amico Panella, una telefonatina la farei, magari si è pentito, signor Panella. No, non è un pentito. Magari, ma lui è siciliano d'origine, no, non credo. Amico Panella, che pensa che gli stupratori di Colonia sono come i siciliani, i maschi siciliani, no? Vediamo un po' se lo pizzichiamo l'amico Panella. Carlo? Sì? Sei in diretta alla Zanzara, ciao. Ciao. Ti sei pentito? Ti sei pentito? Grande Panella, quanti caffè mi ha offerto alla camera il mio amico Panella? Senti, quanti? Panella, Carlo, abbiamo un sacco di siciliani incazzati. Allora, cosa manda vuoi dire? Manda un appello ti al paese. Ti sei pentito o no? Manda un appello al paese, okay, alla Sicilia. Non mi sono affatto pentito. Vedi? È evidente che in tutta in regione c'è stata, soprattutto negli anni scorsi, come ho detto, un machismo molto forte. Cioè nel meridione c'è stato il machismo c'è ovunque, naturalmente. No, ma molto forte, ho parlato, ho detto nel passato. Beh, no, tu hai detto anche oggi, anche oggi. E forse anche oggi. No, ma che ci sia stato machismo, non c'è dubbio. Ha ragione. Non c'è dubbio, ma che c'entra il paragone tra coloro che hanno stuprato, diciamo, molestato, eccetera, eccetera, a Colonia e l'atteggiamento dei maschi, tu hai detto siciliani in particolare, non nel meridione, nei confronti delle donne, sono due cose... Ho detto una cosa molto diversa. Ho detto che a Colonia ci sono due fenomeni, c'è un fenomeno di branco. Di branco, di branco, sì. Di maschi. Come succedeva in Sicilia. Io sono stato in Sicilia. Ma dove stanno sto branco di maschi che circondano le donne in Sicilia anche negli anni 50? Scusami. Una donna negli anni 50 e 60 non poteva girare da sola per stare in Sicilia. Ma quello è un altro discorso, però. Ma per favore, io avevo un'amica che lavorava in Sicilia, una genovese che lavorava in Sicilia, che aveva fatica a girare, abitava l'isola delle femmine, aveva fatica a girare col motorino perché veniva braccata. Braccata? Cioè negli anni 50 e 60 in Sicilia braccavano... No! Ma no, adesso... Non esagerare. C'erano degli episodi. Non esagerare. C'erano degli episodi di machismo, ma è molto semplice. Il branco c'è stato ovunque, il maschilismo. Ma tu dici anche oggi, però, tu dici anche oggi. In Sicilia, ma perché in Sicilia questo si concretizzava, si incrociava con un codice d'onore. Ragazzi, vogliamo. No, ma questo non c'è dubbio. Vogliamo eliminare buona parte della filmografia che parla della commedia italiana, che parla del meridione, vogliamo eliminare, però perché eliminare dici, divorzio perché italiano, dici quando, anche oggi tu scusami perché ancora oggi in Sicilia ci sono fatti come quelli paragonabili a quelli di Colonia? No, ma non ho paragonato. Beh, come no, hai messo in collegamento le due cose. Io ho messo in collegamento il comportamento del branco. Vabbè, è uguale, sì. Che non è assolutamente paragonabile. Ho anche spiegato che a Colonia c'era in più una componente religiosa. Vabbè, d'accordo, però tu hai detto che il branco c'era in Sicilia e forse c'è anche adesso, come c'è stato a Colonia, giusto? C'è un elemento di branco, cioè che le donne non siano state, ripeto, che non siano state libere. Ma forse Sicilia, anche oggi, dici. di girare per strada, è un fatto che io ho verificato. Però una cosa non essere... È che la letteratura, il cinema, sì, ha celebrato perché c'era un codice d'onore. Vi ricordate voi di Franca Viola? La ricordate? Sì, ricordalo. È morta poverina qualche tempo fa, è stata la prima donna che nel 67 si è ribellata al matrimonio riparatore dopo una fuitina in cui era stata, per carità, stata rapita e violentata, dal suo fidanzato. Cioè c'era nella, sì, però non erano fenomeni come quelli di Colonia così, diciamo, visibili. Tu hai fatto... No, ma lui parla del branco, ha ragione, ma su questo. Ma scusate, ma oggi... Cioè il branco è, quella è una logica anche che lì prescinde anche dall'orientamento religioso. Magari mi sbaglio. Paragonare il branco di Colonia al branco di siciliani, che non forse ho anche... paragonato. Beh, no, ma è paragonato, sì. Non ho paragonato, no, ho detto che c'è una cosa diversa, che a Colonia c'è un elemento ulteriore esiste una cultura islamica. E vabbè, la religione, che ha un riferimento, riferimento religioso. Beh, insomma, ragazzi, io non sono, sono vecchione. No, perché Sicilia l'ha detta ben peggio, no? Qualche settimana fa. Io non sono affatto d'accordo con Vecchione, perché adoro la Sicilia e i siciliani, e sono calabrese e sono meridionale per metà, sono un vero bastardo, metà meridionale. Però, e metà, però e dici metà che i maschi, alcuni maschi, i maschi siciliani, branco di maschi siciliani, no, si sono comportati come... Insomma, negli anni 60 in Sicilia non c'erano le prostitute per le strade, che c'erano invece a Napoli, perché c'era, oltre al mascismo, papagallismo, branco e via dicendo, che c'è stato in tutta Italia e anche nel meridione d'Italia, c'era un codice d'onore. C'era un codice d'onore che era contiguo a quello della mafia. Sì, ma c'era d'accordo, un codice d'onore che vedeva la donna come un oggetto da preda. Mi pare di aver detto una cosa, ho scoperto l'acqua calda. No, ma il delitto d'onore è stato abolito nell'81, questo bisogna dirlo, nel codice. Sì, ma oltre al codice d'onore che era dentro il codice penale, c'era un codice d'onore. Scusa, per me hai detto una cazzata, perché le situazioni sono diverse l'una dalle altre. No, il branco non è che in Sicilia una donna. Ma io non l'ho detto, io non ho minimamente paragonato. Guarda, come no? Hai fatto un collegamento, scusa Carlo, tra la Sicilia e Colonia, quello l'hai fatto? Assolutamente no. Vabbè, ma ho capito, uno se la può raccontare come vuole, ma il collegamento l'hai fatto, il branco. No, ho detto che c'è stato un fenomeno di branco, di maschi contro le femmine. Come in Sicilia negli anni 50 e 60 e forse anche ancora oggi. Questo hai detto, l'abbiamo sentito prima. Certo, se vuoi togliere le frasi dal contesto, fai quello che vuoi. Divertitevi. No, ma non è contento. Non l'ho pensato, non l'ho pensato. La cosa che voglio capire è questa. Scusami, Carlo, la cosa che voglio capire, sei stato chiarissimo. L'unica cosa che voglio capire è: ti sei pentito di qualcosa? Vuoi chiedere scuse ai siciliani? No. Ma assolutamente no, mi spiace che abbiano frainteso, ma non sono stato io che non sono stato chiaro. Mi spiace che abbiano frainteso. Lungi da me la volontà di infangare i siciliani. Come i maschi siciliani hanno fatto, hanno fatto e forse fanno ancora oggi. Questo è il branco. Cioè, per te, negli anni 50 e 60, una donna veniva cacciata in Sicilia, veniva cacciata da branchi. Io negli anni 70 la mia fidanzata andò per strada di Palermo da sola e non riuscì ad andarci, ragazzi. Non riusciva ad andarci perché veniva braccata. Ma cosa? E poi magari anche palpata. Qualcuno. Ma sono cose che. Insomma, leggetevi la stampa di oggi, questo succede. No, magari non sappiamo. Magari non sappiamo noi. No, leggetevi la stampa, io non so dove vivete, leggetevi la stampa di oggi, una giornalista è andata in giro per Porta Palazzo e si è trovata in una situazione di braccata. Cioè, le donne in Italia sono state braccate per decenni, in particolare nel meridione e in Sicilia. In Sicilia il fatto era più grave. No, ma ho capito benissimo, il codice d'onore. Grazie, ciao. Stavo ascoltando Radio Capital adesso, Zuccone è molto più divertente. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Cioè, stasera una strafiga mi chiede di uscire a cena e io mi invento una scusa perché devo ascoltare la Zanzara. Andate a fanculo. Parenzo, mi stai leggermente sul cazzo, però quando imiti Mauro da Mantova sei il top assoluto. Grande, grande Parenzo! Allora, ragazzi, sapete che mi sono appassionato, Parenzo lo sa benissimo poi, purtroppo lo sa, purtroppo per lui, mi sono appassionato da un po' di tempo a leggere saggi, trattati di filosofia. E sai chi è? Sai chi è andato in sinagoga? Sai? Il Papa, domenica? Il Papa! Il Papa! Sai perché è andato? Sai? Perché? Perché è ebreo il Papa! Ma no, non è ebreo il Papa! Sì! È stato lui! È stato lui a fare cosa? È lui, Colonia! Ci vale veramente? Mi pare, però. E De Benedetti? Dov'era? Che c'entra De Benedetti? No, non era in sinagoga. Dov'era? Ma non in c'è. In Svizzera, appunto. Boh. Non c'è nessun legame però tra le cose. Allora ragazzi, come sapete, ripeto per l'ennesima volta prima delle interruzioni di Parenzo alias Mauro da Mantova, che mi sono appassionato al tema della cacca, della merda, come sapete. No, no? Sì, sì, leggo dei trattati incredibili. Parenzo, guarda che è pieno di libri molto interessanti su questo fenomeno. Allora, ho scoperto, magari voi lo sapete, siete molto più acculturati, molto più presenti di me, siete molto più sul pezzo di me, che... una questione fondamentale è quella della puzza. No, sappiamo, la merda puzza. Mi sembra di dire una cosa ovvia fino a questo momento, Parenzo, giusto? Beh, la colpa dell'odore sgradevole è di alcuni composti, in realtà, che sono tracce di zolfo e le molecole di ammoniaca. Molecole di ammoniaca e di trimetilammina. Ti giuro, si chiama così, trimetilammina. Questi sono i composti responsabili dell'odore della cacca. I giapponesi, che sono molto sensibili a questa cosa qui, hanno sviluppato alcune pillole, cioè hanno commercializzato alcune pillole che nell'intestino disgregano queste molecole di ammoniaca e di trimetilammina e insomma rendono gradevole, non dico gradevole, ma annullano il cattivo odore. Di una marca che si chiama Etiquette è stato venduto oltre 1 milione di flaconi, mentre ci sono alcune marche concorrenti in 6 mesi oltre 600.000 confezioni. Però sulla scatola c'è scritto l'agente responsabile dei propri odori, come sul pacchetto di sigarette, no? Negli Stati Uniti la Odafree, che è un altro prodotto per eliminare la puzza di merda, dopo 3 giorni di utilizzo si promettono dei risultati strabilianti. Unico effetto collaterale è che la cacca si colora di verde, cioè tu caghi in verde praticamente, tutto verde. Una cosa incredibile, ragazzi. È un argomento molto appassionante, fondamentale. Molto più dell'argomento chi sarà il prossimo sindaco di Roma. Nella pregiatissima, stimatissima e meravigliosa trasmissione condotta da David Parenzo la domenica insieme al signor, ma lo dico sul serio, senza ironia assolutamente, insieme al signor Labate, era ospite il mio amico Roberto Giachetti, il quale ha detto innanzitutto questa cosa farà discutere, ma anche se la fanno tutti in realtà, che non si dimetterà da deputato, in attesa di essere eletto o meno sindaco di Roma. Naturalmente una volta eletto sindaco si deve dimettere. Io mi dimetterò nel momento in cui i romani dovessero decidere che faccio il sindaco di Roma, ma non vedo per quale ragione io dovrei... No, se vincesse le primarie e dovesse candidarsi a sindaco... Le sto spiegando, non vedo una sola ragione, nel senso che io ho un incarico che hanno anche altri vicepresidenti che fanno politica, lo fanno andando a fare campagne elettorali, che lo fanno facendo altre cose, io continuerò a fare il vicepresidente della Camera. Cioè, mi dimetto dalla Camera solo se verrò eletto sindaco. Mi sembra però, ragazzi, una cosa abbastanza normale. I 5 Stelle non lo fanno. Cioè, dicono, una volta che uno viene eletto deve terminare il suo mandato. Io sono abbastanza di questa idea. Cioè, se tu sei in Parlamento, resti a fare il parlamentare fino alla fine del mandato e poi, casomai, se i tempi coincidono, ti candidi a sindaco. Io l'idea è che ci sia un parlamentare che a un certo punto, questo non lo dico per Giachetti, che a un certo punto si candida a sindaco, la cosa a me non piace particolarmente, però... Poi alla fine la Moretti si dimise, però sì, la Moretti si dimise con la garanzia di essere eletta sicuramente al Consiglio regionale, lo ripeto per l'ennesima volta, quindi con la garanzia di stipendio, dici, in a quel parte caso... che si guadagna addirittura di più facendo il consigliere regionale rispetto al parlamentare europeo, comunque più o meno siamo lì, ma lei era stracerta di arrivare o prima o seconda in Veneto, dunque di essere automaticamente eletta al Consiglio regionale. Sì. Vabbè, poi uno può dire, se dimessa lo stesso ha corso un rischio, sì, un piccolo rischio lo corse, non c'è dubbio. Allora, prima di aprire agli ascoltatori, c'è un'altra cosa. È tornato Mario Adinolfi. È tornato in tutta la sua forza, in tutta la sua potenza, in tutta la sua... Dove doveva andare? Il suo essere, probabilmente, in tutta la sua pesantezza, diciamola tutta. In tutta la sua forza anche fisica. Su una cosa, Parenzo, su cui sei d'accordo. La cosa incredibile è che sei d'accordo, sarai d'accordo. Non lo sai perché sei stato molto impegnato in queste ore, in questi giorni. No, ho visto dei cose su internet. Amico mio, sul net. Dice che in Svezia il cliente viene esposto al pubblico, dunque i 9 milioni di clienti delle prostitute vanno puniti ed esposti al pubblico ludibrio. Non è sbagliato. Così dice, no, non è sbagliato. Devi dire, sono d'accordo. Sì, no, sono d'accordo. L'Ayatollah Adinolf, questa volta. O Adinolf, qualcuno l'ha soprannominato Adinolf come Adolf, no? No, cioè, Ah, Dinolf, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Non ha detto una follia. Cioè, secondo loro, io per esempio, che sono andato alcune volte a prostitute in Svizzera, in bordelli, andrei esposto al pubblico ludibrio? Secondo Adinolf? Dai, su, Adino, e andiamo. Ci sono due modelli, anche a livello internazionale. Esiste il modello olandese, quello che, non so, immaginiamo le donnine in vetrina, per capirci. Esiste il modello svedese, di una nazione che viene solitamente citata come modello e faro di civiltà, che punisce l'acquirente, il compratore, il cliente, lo attacca nei suoi interessi, lo espone pubblicamente. Questa cosa in Svezia funziona. I clienti sarebbero 9 milioni e quelli sarebbero quelli da esibire al pubblico ludibrio, dice Adinolf. Puniamoli e esponiamoli. Puniamoli ed esponiamoli. Questo dice Adinolf, follia assoluta. Sentiamo ancora il novello Adolf. Ma il fatto che nel nostro paese non ci sia, nel novero delle professioni che le mie due figlie possono scegliere, quello di fare la prostituta, a me non dispiace. Non lo vedo come un orizzonte che limita così tanto la libertà delle mie due figlie. Lo vedo come un modello sociale avanzato. Ma che c'entra, Adinolfi? Che c'è? Ma che vuol dire? Cosa vuol dire se le tue figlie, non te lo auguro naturalmente perché tu non lo vuoi, dovessero scegliere di fare le prostitute? Ma nessuno lo augureresti, credo. No, ma se le tue figlie dovessero, lo farebbero a prescindere dall'esistenza di una professione, di un albo delle prostitute. Se vogliono fare le zoccole, faranno le zoccole. Ma si vede basta. Che non è una questione soltanto sociale, mamma di discredito mia, sociale. Ma ancora a parlare di questa roba stiamo con Adinolf che dice. Ma tu che lo augureresti a qualcuno di avere una figlia che decide di fare la prostituta? Io sono per la libertà. Parti da te, ma che vuol io dire sono la libertà? Per la libertà. È ovvio che se uno vuol farlo, se va bene. Lo dico ma per l'ennesima volta, se mia figlia dovesse decidere consapevolmente, una scelta consapevole di incassare un po' di denaro ma facendo figurati la prostituta, me ne addolorerò, probabilmente me ne addolorerò. Io ti toglierei probabilmente. No, me ne addolorerò. Ma ne prenderò atto e perché io sono di tutto per non farglielo fare. No, non fa, no, dipende, non lo farei, se lo fa liberamente, sì, sì, di tutto, se di tutto. Schiava di qualcuno, no. Ma anche liberamente, a parte che liberamente, vabbè, uno non amico mio, decide, tanto non possiamo decidere, inutile che ti ludi che noi possiamo decidere qualcosa. A un certo punto, giustamente, i figli faranno le loro cazzo di vanno scelte. Vanno aiutati, sì, vanno indirizzati, vanno. Ma chi sei? Com'è? Certo che va, perché a te non ti ha indirizzato nessuno negli studi, nelle cose. Vanno indirizzati. Ma a te non ti hanno indirizzato. Ma non sì, c'hai avuto famiglia, ma dopo alla fine fai il cazzo che vuoi, ma ho capito, ma avranno comunque hai respirato qualcosa, a me questa cosa è no, incredibile. No, t'hanno fatto fare il liceo classico, t'avranno indirizzato in certo, qualche cosa non, anche a te, non c'è o dubbio, no? Sì. Non t'hanno indirizzato, hanno sì, lasciato poi, lì però allo stato brado. Fai quello che vuoi, vabbè, caro ecco. Giuseppe, che cazzo vuol fare dopo le medie? Dov'era Adinolfi, che non mi ricordo bene dov'era, credo Tagadà, a Tagadà, Tagadà oggi, Tagadà, c'era Tagadà, anche Tagadà. Il signor Cosimo Mele. Cosimo Mele non ha tantissimo. Vi ricordate il signor Cosimo Mele? Vecchio deputato, vecchio, non vecchio, in realtà vecchio in quanto a legislatura, deputato dell'UDC all'epoca, non mi ricordo che cos'era perché sì, hanno cambiato sì 40.000 partito volte, cattolico, nome di partito, comunque, sì, che fu pizzicato in un albergo, il De Russi, a Roma, insieme ad una signorina. C'era di mezzo anche la cocaina, si chiamava la signorina Pocahontas, te lo dico io che mi ricordo, come no? Lui negò l'assunzione di cocaina mentre quella era credo strafatta, non mi ricordo, trovarono cocaina eccetera, insomma c'era di mezzo pure una storia di prostituzione, vabbè, ma non ricordiamo queste cose. Adinolfi e Mele. Quando l'onorevole Mele è stato esposto al pubblico ludibrio, io scommetto che a prostitute non ci sarà mai più andato. Voglio scommetterci, lei c'è più andato a prostitute, Mele? Quella è la soluzione, basta esporre, basta esporre al pubblico ludibrio, guarda, non ci il cliente, no, questo perché vuol dire essere ipocriti, questo vuol dire non è essere ipocriti, non è efficacissimo, il problema non sono in Svezia io, l'hanno studiato. Allora, secondo Adinolfi è efficacissimo quello che è successo a Mele, che fu. Però c'ha ragione. Ma nel dai, merito. Ma non dire cazzate. Beh, dai. Nel merito c'ha ragione. Ma sei però vergognoso, dai, Roberto ma da Palermo. Sì, è stato dai un bel deterrente, però. Perché ma non che c'è deterrente? Andato, no? È stato sputtanato. Perché si vede che attorno a questo c'è una vergogna sociale, no? Di fare. Cioè, ma beh, perché cioè, dovrebbe essere uno, se no uno esposto lo se va a prostituta? Ma è una no, cosa civilissima andare a prostitute. Stranamente intelligente. Tu invece pensi che sia una cosa incivile andare a prostitute? Questo è il problema. Non do io patenti, ma. Ma come? Non l'hai detto mille volte, sono dei miserabili. Hai detto adesso te li dici. Beh, chi va a sfruttare le donne è un miserabile. Vabbè, dai, basta, non ne posso più di questa gente che cambia opinione. Roberto no, da Palermo. Miserabile. Chi va a prostitute sfruttandole è un miserabile, no, sicuro. Sfruttandole, non è che io lo chiedi prima. Roberto da Palermo, dai. si assume il rischio di sfruttarne parecchi. Roberto Palermo, vai. Buonasera ragazzi. Dimmi. Chiamavo per la questione di Pannella. Sì, dimmi. Oddio, ho sentito pure la sua chiamata. Non è possibile che questi si permettono di dire quello che vogliono in televisione e poi non hanno neanche il coraggio di chiedere scusa quando capiscono anche di aver detto una cazzata. Dico, paragonare il gruppo sciolto, il branco sciolto di Colonia con i maschi siciliani, diciamo che è alquanto fa incazzare, diciamo, non è... Non è proprio la verità, diciamo che lui dice qui... che negli anni 50-60 e forse anche oggi la donna rischia in Sicilia. Bah. Ma addirittura ho sentito che lui, per lui negli anni 60 neanche c'era la prostituzione in Sicilia, che qua un siciliano per soddisfare i propri bisogni andava a stuprare. Amico mio, sei col viva voce innanzitutto? No, assolutamente no. Vabbè, che ti devo dire? Per me ha detto una cazzata, tu pensi che abbia detto una cazzata, siamo d'accordo, arrivederci e grazie. Salvatore da Messina, dai. Ciao, niente, anch'io sono uno di questi maschi stupratori e molestatori, perché chiamo da Messina, ovviamente. Sì, maschio siciliano anche tu. Esatto, dico in relazione a quello che ha detto quel tizio, che non, io onestamente fino all'altro giorno non conoscevo, ma evidentemente... Beh, come molte persone, naturalmente, è diventato famoso, esatto, anche, ho conosciuto il grande pubblico per questa cosa, questa comparsata in Rai, l'amico Pannella. Ma infatti la cosa che mi infastidisce di più non è tanto quello che ha detto, perché è chiaramente un'idiozia e tutti l'hanno capito, mi infastidisce che uno possa arrivare alla televisione pubblica, dire quello che vuole per diventare famoso. Vabbè, ma ognuno può dire anche quello che vuole. Adesso questo imbarazzo della Rai, la Rai è un posto che ha ben altri problemi. Adesso qualcuno dice, dobbiamo chiedere scusa, un'associazione, aspetta un attimo, un'associazione di siciliani, non mi ricordo quale, una sconosciuta associazione di siciliani, dice la Rai deve chiedere scusa, ma che volete? Cioè, succedono delle cose in televisione, che volete impedire che accadano? Che doveva fare il conduttore? Dire no, io difendo l'onore della Sicilia, ha detto una cazzata, quello ha detto, vabbè, ma insomma non ha ribattuto, chi se ne frega. Vi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. La Zanzara. Le donne che si convertono all'Islam, ottima scelta. È un po' come se un ebreo si convertisse al nazismo. Cruciani, ma ti pare che un vescovo deve parlare di famiglia? Ma lui che cazzo ne sa di una famiglia? Proprio in questo periodo bisognerebbe prendere tutti gli africani irregolari, metterli in fila indiana, attaccati con una catena, e rimpatriarli, e non con gli aerei, dove cazzo sono, a casa tutti. A quelli che la sera non si può più uscire, oggi la sera non si può più uscire, bisogna chiudersi in casa. Sentite 40 anni fa quasi come vi prendeva per il culo Verdone. Per esempio la sera però non si può più uscire, no, è pericolosissimo. Ammettiamo che la sera voglio uscire con mio padre, con mia madre, al limite mediamente qua a finanziare. Usciamo, a un certo punto arriva la motocicletta con due, che si avvicina al finestrino, mi dicono che c'è un po' fuori il portafoglio, che c'è un po' fuori l'orologio. Che ti credi che gli do il portafoglio con l'orologio? No, io ti caccio fuori questo. Ah, dice non la puoi usare, chi ti ha detto che non la posso fare? Ce la porto tardi. Timbrato, vi rimando, ah, ma posso non dire niente. Ma che stai scherzando? Prima che mi compra a me, voglio essere a compa loro, dice ne puoi a compa, chi ti ha detto che ne posso accompagnare? C'ha la pista, dice, ma è sicuro che la puoi usare, perché c'è il porto dentro. Ma che stai fatto? Perciò non sono tranquillo, sono tranquillissimo. Dice, come fai a essere tranquillo? Con questo. Dice, con questo che ci fai? Che ci faccio con questo? Ci uso questo. Ah, che stai fatto? Ti giuro che questo mi ha mandato un messaggio così, Cioè mi ha mandato un messaggio e insieme l'audio del film di Verdone, quello... Sì, quindi ci ha lavorato, dici anche. Che scherzi, cioè, si è messo là con il registratore. Ciò dimostra che la gente è matta, dai. Ma che matta, ma sono dei geni, ma sei impazzito, dai. Luigi Milano, vai, 800240024, Luigi. Ciao Cruciani, io volevo proporvi una provocazione. Sì. Proporre una provocazione è già strano, cioè, comunque dimmi. Vabbè, mettila come vuoi. Allora, la provocazione è questa: quando tu affitti qualcosa, c'è che chi affitta che ha un vantaggio economico e chi riceve questo vantaggio che ha evidentemente un altro vantaggio di un altro tipo. Ora, affittare l'utero è una cosa da molti vista come una cosa positiva. No, veramente da molti no, eh. Cioè, sì. Comunque, ti assicuro che da molti no. Io le persone che sento, la maggior parte delle persone che sento dicono che è un obbrobrio, un abominio, okay. Cioè il fatto che qualcuno utilizzi un'altra donna pagandola per avere un figlio con, beh, il seme, sì, del compagno, eccetera. Parenzo, per esempio, è indubbiamente una cosa sulla quale riflettere, perché senti, sì, però non mi dire riflettere, perché io la parola riflettere devi fare, ma io la parola riflettere, sei contrario o favorevole? Lì per lì mi farebbe un certo effetto pensare che una donna tenga un bambino, cresca dentro il suo corpo per 9 mesi, sei contrario, un bambino, sei contrario, pagando, sei contrario, lo, o no, partorisca e poi lo dia a qualcun altro. E dunque questo, sei contrario? Questo mi trova assolutamente contrario. Oh, benissimo. Dopodiché, dopodiché entrare altre cose. Nell'etica, Luigi, vai. Il tema però non allora, era... Io non volevo esprimere un giudizio, per carità, ognuno si fa il proprio, però... Sì. Cambiando organo e quindi invece che usare l'utero, usare la vagina da mettere, sì, in affitto, si chiama prostituzione. Sì, ma io l'ho già detto, amico mio. Cioè, comunque va bene la provocazione. Scusa, non ti ho seguito, l'utero in affitto è come la prostituzione, certo, ma anche secondo me è così. Gli effetti sono un po' diversi. Diciamo. Ma saranno diversi, ma è perché esattamente la stessa cosa. Così. Se uno è a favore della prostituzione, se uno è a favore della legalizzazione della prostituzione, dovrebbe essere... Ma non è vero, è una provocazione sciocca, ma non vuol dire questo niente. Questo volevi dire, Luigi? Sì, volevo semplicemente riflettere su una cosa che, ma scusami, a seconda dell'organo evidentemente alcuni ma non è così materiale e altri ma scusa no. Ma sarà diverso tenere nel grembo un bambino e crescerlo per 9 mesi e sapere che c'è una persona viva dentro di te rispetto a un altro? Sì, ma lui parlava del principio, però lui parlava del principio, il principio, le cose è... non sono solo principio, parlava... sono anche materialità, sì, lui parlava, no? Del principio, il principio della prostituzione è lo stesso, cioè affittare qualcosa dell'utero in affitto. Ma il principio è una cosa astratta, va bene il ma principio. Ma ti dirò di più, ti dirò un'altra cosa, la capisci anche tu, l'utero in affitto cosa, non si capisce perché va bene l'adozione, non va bene l'utero in affitto, cioè sempre ma di compravendita si parla, cioè tu compri qualcosa perché alla fine nell'adozione tu compri qualcosa perché paghi le associazioni, paghi una macchina, spesso devi oliare qualche cosa. Non paghi, userei per il termine paghi. Bambini comprare, ma come no? Insomma, paghi no. Qualcosa, paghi le associazioni, non le paghi, le adozioni costano, lo sai benissimo, no? 10, sì, 15, certo, 20, 30 mila euro costano, e fare un figlio con l'utero in affitto costa pure quello, alla fine sempre di quello si tratta, cioè non è che è molto diverso, l'unica differenza, è vero, hai ragione tu, è il fatto che c'è una persona, come dire, che nasce dentro una pancia. Invece... Ma no, non è una cosa da poco questa. No, d'accordo, non sarà una cosa da poco. Beh, insomma, è la cosa do del mondo, è la cosa più... Des. Do ut des. Giuseppe, provincia di Ancona. Giuseppe, vai. Giuseppe? Non c'è. Samuele Parma, dai. Samuele, Luciani, dimmi, senti? Dimmi, Samuele, dimmi. Ciao, no, mi fa entrare da freddo a parlare di, a freddo, di cinghiali, a parte che... Parla di cinghiali, vai, vai, vai con cinghiali. Ma cinghiali, anche perché se no... È un po' come il tema dei politici, cioè il cinghiale non si coltiva niente, cioè non è che tiene da parte qualcosa, divora tutto, lo spiana, e quindi possiamo parlare tranquillamente. Se niente subito a freddo a parlare di politici, possiamo parlare anche di cinghiali, penso. Ma vai, Samuele, vai, parla, no, parla. Diciamo che i politici fanno subito queste posizioni come quella lista che hai parlato tu prima, di quella lista in cui dicono oh, assolutamente non si può toccarli, anzi bisogna metterci... diciamo in modo che li controlla la riproduzione in modo naturale, cioè c'è gente che non sa niente di niente, prende posizioni così senza senso, anche perché io sono d'accordo assolutamente come te nel fare ognuno il proprio controllo, cioè mi spiego meglio. Come dicevano gli antichi romani, che diciamo diritto romano, che la terra è di proprietà di chi, cioè la sì, amico mio, che però vai al sodo, caro Samuele, dagli infari della proprietà fino al cielo, diciamo, quindi non solo diciamo i professionisti della caccia, ma anche chi riceve sul suo terreno queste visite non volute può limitarne, diciamo, la proliferazione. Vabbè, Samuele, ciao. Santina Palermo, vai. Santina. Pronto, salve Cruciani. Dimmi, Santina, dimmi. Allora, io inizialmente mi ero assolutamente incazzata con te perché pensavo tu sposassi la teoria di quest'essere che non oso definire. Sì, parla più forte, Santina, perché ti sento dall'oltretomba, dai. Scusami, ma sono in macchina e mi sono fermata un attimo. Sì. Dico, inizialmente ero veramente incazzata con te perché seguo la tua trasmissione. Sì. La tua trasmissione in realtà diventa una sorta di dipendenza, io quando rientro dal lavoro ti seguo, ma stasera sinceramente quando ho acceso mi ero veramente incazzata perché... Ma guarda che io ho detto una cosa completamente diversa, cioè ho detto che era una cazzata quella che ha detto Panella. Assolutamente, assolutamente. Ma ti pare possibile che io... Ti pare possibile? Io sostengo che ovviamente in tutto il meridione... Ma questo è un deficiente, scusami. Ma questo, quando la moglie è stata a Palermo, in Sicilia, negli anni 70, non oso immaginare come la moglie si sia presentata nel nostro territorio. Perché la in che Sicilia, senso, scusa? Guarda, ma guarda, io... Cioè, come si è presentata? Nuda? Mezza nuda? Non allora, ho capito. La moglie di Panella, come si è presentata, scusami, la fidanzata? Ma posso anche credere che questa donna sia stata in maniera assolutamente non idonea a come una donna si deve presentare in qualsiasi ambiente, non in Sicilia. Ma quello no, quello no, Santina, quello no. Ma guarda, scusami, se qua qualcuno osa mettere in dubbio che la Sicilia sia quella che quest'uomo intende presentare, allora io di contro gli dico che sua moglie probabilmente non so in che modo si sia presentata. Noi siamo delle donne del 2015. Io sono una libera professionista che lavora e ti posso garantire che sono felicemente sposata ad un uomo che può dargli veramente lezione di perbenismo a questo coglione. E la maggior parte degli uomini siciliani non sono quelli che lui... Lui ha parlato di branchi di uomini degli anni 50 e 60 che addirittura le donne non potevano girare perché venivano rincorse. Boh, sarà vero in alcune occasioni, in alcuni centri sicuramente, ma non è che... Gli episodi di Colonia sono completamente diversi da quello che secondo lui succedeva e succede ancora forse in Sicilia. Cioè branchi di uomini, le donne non possono uscire. Adesso francamente mi sembra una follia. C'è Giuseppe dalla provincia di Ancona o no? C'è o no? Giuseppe? Giuseppe, ci sei o no? Non c'è. Sergio, provincia di Milano. Sergio, dimmi. Sì, buonasera. Volevo intervenire sul discorso quello della prostituzione di Adinolfi. Sì, sì. Ora io ho 3 figli, 2 femmine e un maschio. Sì. E a me non darebbe fastidio se la professione della prostituta fosse ufficiale. Sì, ma nemmeno a me darebbe fastidio. Manderei sicuramente a studiare, non le manderei. Però mi sembrerebbe anche una professione di altissimo livello se fatta in un certo modo. Sempre poi... Ma, cioè, scusa, tu hai 2 figlie femmine. Se tua figlia ti dicesse, guarda, non è che funziona così di solito. Comunque, a un certo punto ti dice, voglio fare la prostituta. Tu che dici? Perché se diventasse una professione, perché no? Anche perché è preferibile che sia una professione piuttosto che invece sia una situazione come è adesso. Ma è già, a parte che è già, se vogliamo rimanere alle parole... Se tua figlia ti dice voglio fare la zoccola, tu dici vabbè... Beh, ma non ha figlie lui, evidentemente. Non me lo dirà mai che voglio fare la zoccola. Se lo scoprissi, che reazione avresti se lo scoprissi? Vedi, ma guarda, non lo so, mi sono fatto questa domanda quando ho sentito voi prima, cioè... Ma cosa faresti? Si metterebbe le mani nei capelli, direbbe ma perché? Come posso aiutarti? Mio Dio, ma aspetta un attimo che devo beccare Salvini prima che parte, c'ha l'aereo. No, e c'ha l'aereo lì, deve andare a Strasburgo. Lo so, ma lo dobbiamo beccare, devo chiedere 2 o 3 cose, dicono che c'è Putin che lo finanzia. Aspetta un attimo. Pronto? Matteo, ci senti? Aspetta che mi metto in un posto più tranquillo possibile, che siamo in aeroporto. Dlindlon, il migrante Salvini è pregato di imbarcarsi. Dlindlon, il migrante italiano Salvini è pregato di imbarcarsi. Vada via i pe. Il reato di immigrazione clandestina non è stato tolto in Italia, quindi è pregato di trasferirsi a Bruxelles, barra Strasburgo, Dlindlon. Ma tu non hai fatto nessun viaggio di quelli che costano un sacco di quattrini del Parlamento europeo? Sono uno sfigato, no, è dall'inizio. Non del sei stato alle Isole Figi insieme alla signora Kieng? In Svizzera, no. Parenzo, tu conosci, anzi tutte e due, conoscete un gioco che si chiama Akinator? Sì, l'ho sentito. Allora, Akinator su internet? Sì, è un'applicazione. Sì, sì, sì. Questo qua si fa anche con i figli, Akinator. Sì. Ed è un gioco con la lampada di Aladino là. Certo. Che bisogna indovinare il personaggio. Cioè, esatto, uno pensa a un personaggio. È vecchio di un cucco. Sì, eh. È vecchio di un cucco. Allora, la cosa curiosa. Ci sono è anch'io che... in quella Akinator. Ma ci sono anch'io. Certo. Il fatto è che c'è anche Salvini. Allora, ero con mia figlia sabato sera. Sabato sera ero con mia figlia. Tu dici che cazzo c'entra Akinator e Salvini? No, appunto. Sì. Allora, la cosa è questa. Mia figlia è un po' fissata, ha 10 anni, però è ancora un po' fissata con Akinator. Erano le 10 di sera. Papà, facciamo Akinator. Allora, pensa a un personaggio. Non so perché, tra tanti personaggi. messaggio, ho detto vediamo, siccome lei non lo conosce magari, e tu penso, ho pensato Salvini, tu dici sono malato, no? Aia, che pensiero. Ma no, ma perché sì, ho pensato a Salvini. Allora si gioca così, tu apri, no, cominciamo, ecco, lo sto facendo. Io avrei pensato a Gandhi, ad esempio. Aspetta, il suo personaggio è femmina? No. Il suo personaggio viene dall'Italia, chiede sempre mia figlia. Sì, più o meno. Beh, no, anzi, dalla Padania viene. Però viene dall'Italia. Il suo personaggio ha più di 26 anni? Sì. Matteo, sì. Sì. Sì, poi il suo personaggio ha mai recitato in un film? No. No. Mi sembra, no? Hai mai recitato in un film? No. No. No. No. No. Il suo personaggio ha a che fare col mondo dello sport? No. No. No. Molto poco, personalmente. Però no. No. Il suo personaggio ha a che fare con la musica? No. No. Il suo personaggio ha a che fare con i migranti? Aspetta, sì. No, non è questa la domanda. Domanda numero 7. Il suo personaggio è mai apparso in televisione? Beh sì. Sì. Che possiamo dire a questo, Matteo? Sì, sì, decisamente sì. Sì, sì, sì, quando mi invitano a gratis ci vado volentieri. Sì. Il suo personaggio è un politico? Sì. Domanda numero 9. Il suo personaggio è di Firenze? Direi di no. No. Direi di no. Il suo personaggio è morto? Qua al gate B7 di Fiumicino c'è uno che fa dei gesti poco convenienti, però. Cioè ti stai toccando le palle, insomma. No, esatto. No, no, il suo personaggio è del nord Italia? Beh sì, decisamente sì. Molto. E siamo arrivati alla domanda numero 12. Il suo personaggio è mai stato premier? No, ma spera di esserlo. Per il momento, per il esatto. No, per il momento. Il suo personaggio attualmente ha più di 50 anni? No, no. Ma quanto sei stato a fare sto gioco? Scusa. Aspetta, no, domanda numero 14. Povera bambina, no, chiamate il telefono azzurro, più che altro. È molto veloce, ti assicuro, è molto veloce. Domanda numero 14. Il suo personaggio vive in Lombardia? Sì. Milano, il suo personaggio sì. Ha a che fare con il verde? Beh, qui si arriva. E siamo alla domanda numero 15. Dopo 15 domande esce il risultato. Esce il risultato. Dovrebbe esserci arrivato. Dovrebbe esserci arrivato. E ci è arrivato, infatti, c'è l'immagine di Matteo Salvini. Allora, quei comunisti di Akinator hanno messo un'immagine di Salvini con gli occhi storti. E poi c'è scritto, aspetta, con una specie di felpa verde. E poi c'è scritto Matteo Salvini, politicante Lega Nord. Beh, ma veramente. Ti giuro, ti giuro. Che tristezza. Adesso faccio la copia e colla faccio una fotografia e te lo mando. Giramelo su Facebook. Cioè, allora, Akinator, gioco molto popolare tra i bambini, è decisamente anti-Salvini. È giusto. Mio figlio di indagare e lo scaglio. Che tristezza. Ma di dove sono questi che fanno il giochino? Non lo so, Akinator sarà la Corea del Nord. La filiale italiana di Akinator, che ne so. Senti, a proposito, ma gli 007 americani, cioè i servizi segreti americani, sostengono che Putin ti rifornisca di quattrini, di denari. Sì, come la prima volta che esce sta roba, sì, mi riempie e mi offre anche delle brioche con della crema ogni tanto. E delle belle signorine, no? Le belle signorine, no? Ma che signorine? L'ultima volta che sono andato a Mosca c'era un freddo della Madonna, c'era Piazza Rossa chiusa peraltro per motivi di sicurezza. E sono tornato carico di mascia e orso perché c'era un bel negozio di giocattoli che mi sono pagato io, ovviamente, riportando a casa per i bimbi. Cioè, non ti offre manco una Dacia con qualche signorina? No. Ogni riferimento è puramente casuale. Io, ogni volta che vado a Mosca, ci tornerò a breve, ci vado perché ritengo che la Russia debba essere un alleato e le sanzioni contro la Russia. Li pigli i soldi o no? Un'idiozia. Non ho mai visto una lira, un euro, un rublo, una pesetta. Lo rende anche molto simpatico, Savini, il fatto che può essere l'uomo di Putin in Italia. Molto, ma non è l'uomo di Putin. Sarebbe ma una volta erano modo. I compagni che tornavano con le valigie piene di rubli da Mosca. Ecco, da questo è interessante. Al limite sono i comunisti che hanno preso i soldi da Mosca, non tu. Diciamo. Ma non mi sembra che l'abbiano nascosto, ne hanno presi a bizzeffe. Giuriamo su una cosa, giuriamo sul fatto che se qualcuno mi dimostra, facciamo così, se qualcuno dimostra di avere, che io ho preso un rublo, un euro, quello che cazzo è, da Putin, mi dimetto da segretario della Lega. Così. Assolutamente. Facciamo così? Perfetto. Cioè, traducila. E se io ho preso un euro, un dollaro... un rublo da Putin, da uomini del KGB, se qualcuno me lo dimostra, sì, o da infiltrati speciali, e qualcuno me lo dimostra, mi dice anche dove sono, che potrebbe farmi comodo, mi dimetto. Ok. Senti, a proposito di figli invece, mettiamo un caso, Parenzo, che è quello previsto dalla legge Cirinna se passa, no? Cioè Salvini diventa omosessuale, Salvini ha due figli, diventa omosessuale. Non penso, con non tutto pensi, rispetto però. Per chi lo è, io non penso di... Però non si sa mai, nella vita mai dire mai, si dice, sai, no? Sai quanti problemi in meno avremmo tutti noi. Penso di poterlo eliminare da quello che mi accadrà, però... Però non si sa mai, nella vita ci sono fior di eterosessuali convinti che poi a un certo punto no, hanno provato una volta e poi non si sono. Però comunque lasciamo perdere. Vabbè, e quindi diventa fare? Omosessuale e il compagno e decide compagno insieme vale. Al compagno nuovo compagno, che era, nuovo compagno di compagno. Adottare. Sto dicendo un'eventualità. L'amichetto, quello l'amichetto. Che è di adottare i suoi due figli. So che ti fa orrore bene. Questa visione. So che ti fa orrore, però è il caso per il compagno, figurati. Uno può avere un compagno, una compagna, essere sì. gay, trans, lesbica, è l'ultima delle mie preoccupazioni, uno è libero di fare quello che vuole. Sono assolutamente contro e rimarrò fino alla fine dei miei giorni contro le adozioni gay. D'accordo, dunque, ipotesi, Salvini diventa gay, il compagno si mette con uno che vuole adottare i figli che hai. No, il compagno si attacca al tram, i figli hanno un papà, hanno la mamma e quindi quelli rimangono. E quindi gli fai maramao a questi qua? Arrestatemi per omofobia, poi magari c'ho pure l'accendino di Mussolini nel taschino, quindi arrestatemi doppiamente. Ma ce l'hai? Però... No, non ce l'ho, però mi sembra demenziale andare a caccia degli accendini di Mussolini. Ah, ecco, questo ti volevo chiedere. Un amico di Parenzo, il signor Fiano, vuole vietare... Sì, il signor Fiano, onorevole Fiano, vuole vietare il commercio... È una follia. Dei busti di Mussolini. Che ricordano il primo fascista. Vabbè, è una follia, dai. Mi sembra una follia su quei problemi di ordine pubblico e di sicurezza che abbiamo. Vabbè, quello è altro discorso. La caccia della tazza con l'efficie del Duce mi sembra veramente da Ma tu hai qualcosa? Hai qualche cimele a casa nazista, no, fascista? No, non ce l'ho. Poi chi se ne frega? Se uno vuole guadagnare con i cimeli fascisti e nazisti, guadagnasse pure. Ma qual è il problema? Cioè, se uno è malato di queste cose. Le magliette di Che Guevara, per carità di Dio, è che devo mettere fuori legge le magliette di qualcuno. Perché che tu dici Che Guevara. Che Guevara è come Mussolini da un certo punto di vista. Se facciamo la contabilità dei morti fra fascismo e comunismo, non so chi la vince. Io i simboli li lascio e li consegno alla storia. Vuoi mettere la maglietta di Che Guevara? Ammettitela. Ma tu ce l'avevi però una volta? Me ne avevano regalate due al liceo. Però non andavo in giro con la maglietta di Che Guevara. Vabbè, l'hai indossata qualche volta. No, una volta misi una spilletta, se non ricordo male, di Che Guevara con la bandiera dei Paesi Baschi. In solidarietà la battaglia democratica e non violenta eri un po' comunista, dai, sono stato per un periodo sono stato comunista. Ma come erano i comunisti padani, lui, certo. Che si inventa un trascorso comunista che dubito abbia avuto. Io fui capolista dei comunisti padani vent'anni fa, quindi non rinnego nulla. Sei stato comunista. Alcune battaglie di sinistra in difesa degli ultimi, degli operai. Dei meno fortunati, dell'ambiente, ritengo li stia facendo la Lega oggi e non il PD. Sono stato comunista e faccio battaglie di sinistra. Ma alcune battaglie, la battaglia per cancellare quella infamia maledetta della legge Fornero dovrebbe essere teoricamente una battaglia di sinistra. Ormai gliene hai detto di tutti i colori alla Fornero, non si può dire più niente ormai, Guarda, non aspetto che di incontrarla. E che fai quando io vorrei incontri? Solo incontrarla. E che fai? La incontri? Che fai materialmente? Sarei non violento. Ma la vuoi mandare in esilio, hai detto? Cioè, pane acqua. Comunque l'hai visto sto Zalone o no alla fine? Ma come pane acqua senza stipendio? Mi ha fatto sorridere stipendio. Anche perché sputtana le finte riforme del governo Renzi come meglio non avrei saputo fare io. Addirittura sputtana le finte riforme. Scusa, Checco Zalone è dipendente della provincia. Poi lo trasferiscono, poi la provincia cambia il nome, diventa area metropolitana, fa la stessa cosa senza soldi e poi torna a essere provincia. Come avete fatto voi a Monza e Brianza? La farsa della abolizione delle province. E poi che c'è che sputtana il governo Renzi? Questo, cambiare tutto per non cambiare niente. Ecco, non vorrei che il licenziamento dei truffatori statali in 48 ore rimanesse solo sulla carta, visto che io gliela sostengo questa riforma. Grazie Salvini, ciao! La Zanzara. Cruciani, dopo una giornata di duro lavoro, arrivo a casa e mi faccio un bel cannone, così anche il cane si rilassa e ci ascoltiamo la Zanzara. E ti assicuro che anche lui si rilassa con un bel cannone di fumo passivo. Quindi, viva la Zanzara e viva la marijuana! Beppe, scusa, mi daresti il numero del pusher di Sallusti? Cruciani, l'erba è un Viagra naturale. Almeno per quanto mi riguarda. Ragazzi, io più leggo questa storia del cinghiale e più rido di fronte alla sinistra che passa dall'essere una sinistra al caviale a una sinistra al cinghiale. cioè cosa deve avere in mente? Che c'entra la sinistra? Ma sono delle singole personalità. Mamma mia, singole... ma perché non ami più la semplificazione? Ma perché non è la, così la battuta? Ma sai perché? Sono esponenti perché della sinistra in intellettuale. Governa un signore che si chiama Rossi. Ma quella è la politica. Quella è la politica. È un'altra la politica cosa. Di sinistra. Allora, la signora, Renziana, la signora Dacia Maraini, la signora Dacia Maraini scrive: ogni scusa è buona per fare strage di animali selvatici. Dacia Maraini, tu sai cosa vota Dacia Maraini? Io non lo so. No, vabbè, dai, su, hai capito cosa voglio dire, dai. Secondo gli animalisti, l'unica possibilità di fermare la proliferazione di ungulati, perché così si chiamano in termine tecnico i cinghiali, e pensare a un progetto scientifico con la reintroduzione di predatori. Ma chi cazzo sarebbe? L'uomo è il predatore del cinghiale. No, dice predato per ripristinare naturalmente, sì, la che cosa ristabiliscono di... l'equilibrio naturale. È un sistema per dispensare mangimi antifecondativi. Sì, vabbè, ma in attesa di tutto questo. Cioè per sterilizzare. Sì, certo, in attesa di tutta questa procedura, per carità, va benissimo anche questo. Beh, questi continuano a provocare incidenti automobilistici gravissimi, ci sono tutti i dati possibili immaginabili, adesso non vi faccio un elenco perché altrimenti vi annoio, ferire le persone dunque, distruggere le coltivazioni eccetera eccetera eccetera. Allora, Concetta da Bergamo, la signora Concetta, oh, vai. Buonasera. Vai, Concetta, dimmi. Cara. Ascolta, io sono siciliana di origine. Sì, sì. Ho sì. vissuto per 3 anni in sì. Sicilia, poi sono venuta a Bergamo. Allora? Però voglio contrastare le affermazioni del giornalista Panella, che casualmente, mi pare che è stato, non so se ieri mattina o la sera, accendendo il televisore, parlava proprio di questo, mi si è... Sì, sì, su Rai 1, sì, su Rai 1, certo. Perché? Guarda, perché ti si è rivoltato lo stomaco? Cara Concetta, siciliana di Bergamo. Quando fatti queste affermazioni, sì. dice che in Sicilia negli anni 50, io avevo 6 anni, c'erano questi branchi addirittura che assaltavano le donne, è paradossale, ma è la cosa più inverosibile che possa esistere. Che ci potesse essere magari l'innamoramento di un ragazzo, oppure magari la ragazza non corrispondeva, allora c'era la fuitina, sì, la cosiddetta sì. fuitina con il matrimonio. Ma non c'erano, branchi di uomini che inseguivano le donne, dai. L'ho studiato, non sono stata all'università. Ma infatti è una cazzata questa, non c'era nessun branco. Magari ci sbagliamo noi, esistevano i branchi di uomini che inseguivano le donne per strada. Ma mi capitò una volta, però io sono molto conosciuta, eccetera. Nella mia famiglia. Allora? Da Bergamo magari sono tornata, ma io sono sempre stata tranquilla fin da piccola, andavo in barca da sola in spiaggia, cioè forse ho avuto anche un ambiente. Vabbè, però Concetta, che vuoi dire? Non ho capito. Ambienti. Però non è mai successo una cosa di questa genere, nessun ragazzo, nessun branco ti possono guardare, ammirare, farti il complimento, non so quanto sei bella, che belle gambe, oppure vedono passare una bella ragazza, anche se laureati, cioè, il fratello lo chiama, guarda, sta passando, no? E si fermava tutto lì, quindi è assurdo una cosa di questo genere. Va bene, grazie. Matteo, Brescia, vai, Matteo. Ciao. Dimmi. Mi hai rubato tutte le parole per quanto riguarda i cinghiali. Io ho avuto un'esperienza qui, mi danno un mezzo. Non si sente bene, Matteo, parla meglio. Niente, Roberto Palermo, vai. Sì. Dimmi, pronto? Roberto, dimmi. Sì, volevo intervenire sul caso Panella, io sono siciliano. Sì. E non la penso come tanti altri siciliani che sono intervenuti fin qui in trasmissione. Perché intanto bisogna dire che noi siciliani quando ci toccano, guai a toccarci perché... ci sentiamo i perfetti, come diceva il Gattopardo, e quindi possiamo criticarci solo noi, mai a nessun altro è permesso criticarci. E io credo che l'errore del giornalista, del commentatore della trasmissione, è l'errore che fanno molti di generalizzare, però se doveva fare un paragone lo doveva fare semplicemente con la Sicilia, non perché negli anni 50 chissà cosa c'era in Sicilia, ma per quello che c'è tutt'oggi in Sicilia. Cioè, non ho capito, secondo te in Sicilia si verificano gli stessi episodi che a Colonia? Allora, c'è un'inchiesta della magistratura che che è partita da un'inchiesta dell'Espresso di Antonello Mangano, che dice che in provincia di Ragusa centinaia di romene che vengono assoldate per lavorare nei campi vengono schiavizzate anche ai fini sessuali. Sì, vabbè, ma questa quindi, però è un'altra cosa. Rispetto... No, è la così come si generalizza con gli islamisti, così si generalizza con i siciliani. Ma in Sicilia, nella provincia civilissima di Ragusa, le donne vengono violentate e vengono usate per scopi sessuali dagli stessi siciliani che la soldano per lavorare nei campi. Non lo so, questo a parte che deve essere verificato, comunque se non è escluso... C'è dell'Espresso e c'è un'inchiesta della magistratura. Dunque, secondo te è giusto fare questi confronti? Dunque, volendo fare un paragone con l'errore della generalizzazione, Pannella non poteva che fare quello della Sicilia. Va bene, grazie Roberto, grazie, ciao. Ragazzi, dopo vari giorni torna il peggio di Radio Padania. No. Sì. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardavanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Seppellire i resti delle carcasse di quei porci in un territorio tutto inondato di urina, di feci, di maiale. Ma non ho capito, seppellire le carcasse di quei porci, quali carcasse dei porci? Quelli di Colonia. Poi, senti questa, ogni tesserato, sempre ascoltatori di Radio Padania, ogni tesserato del PD mette a disposizione dei clandestini la moglie, risolviamo il problema della prostituzione, senti. Diamo 400 euro solo ai tesserati del PD, se prendono un clandestino in casa. Poi ogni tesserato mette a disposizione la moglie, mettiamo la moglie in regola, così risolviamo anche il problema della prostituzione legale, ci pagano le tasse e i clandestini sono soddisfatti. Senza dubbi né ripensamenti. Io ho sentito che c'è stato un uomo che ha ammazzato quella poveretta americana lì in Toscana. No, sì, non si dice niente più. Un uomo nero. No, nero è già di parte. Per essere più chiari, un negro. Ecco, punto. Siamo a posto. Alla faccia della Boldrini. Ci sono quei figli di scroppa che si fanno esplodere con le cinture esplosive, no? Quando trovano i resti di quelle carcasse, di quelle carogne, dovrebbero seppellirli con dell'urina di maiale, così non vanno nel paradiso. Questo è interessante, però addirittura questo ascoltatore è riuscito a dire che le carcasse dei kamikaze che si fanno esplodere dovrebbero, siccome loro no, aspirano in teoria al paradiso, dovrebbero essere sepolte con lo sterco, il piscio di maiale. Questo è sempre Radio Padania, no? Signori di Radio Padania. Senza dubbi né ripensamenti. Ascolta, stavo sentendo l'ennesima cazzata europea. Cos'è che gli fanno imparare agli extracomunitari? Cos'è, un manuale, un corso? Che se una donna dice no, non si può violentarla, non gli bravo. Si può fare niente? Sì. Guarda te. Ascoltami un attimo, ma allora vuol dire che nei loro paesi si fa così? Cioè loro quando vedono una donna per strada gli saltano addosso, fanno quel cazzo che vogliono. Al loro paese, allora sono delle scimmie praticamente, perché gli animali lo fanno per la riproduzione normale, diciamo, la cosa naturale. Anche questi probabilmente. E invece questi sono proprio degli animali, loro sono delle scimmie, non sono degli uomini. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori. Nel regno animale non è che c'è l'accoppiamento così sì che si implicita il passo alla femmina e il maschio gli salta addosso. C'è il maschio che si pavoneggia, oppure c'è una lotta tra maschi, quello più forte è quello che vince e quello che ha diritto ad accoppiarsi. Quindi già lì c'è un momentino, sono un momentino più avanti gli animali rispetto a questi qua. Fai vedere le tue braccia possenti a chi ti vuol fermare. Sali Padania, vedere quanto è bella la tua terra. Io vi posso assicurare che se a una della mia famiglia gli succede una cosa del genere con queste merde qua, ti posso assicurare che qualcuno ci rimette, ma ci rimette di grosso. Mi dicano razzista, mi dicano fascista, sì, sono razzista, sono fascista, e mi fanno salire anche qualcos'altro che non lo dico perché quello sarebbe ancora peggio. Padania bella e libera, guarda avanti. Allora ragazzi, a proposito di animalisti di cui abbiamo parlato prima, caro Parenzo, sei rimasto basito da Radio Padania? Non ho capito. Sei rimasto totalmente attonito, Sì, perché io pensavo che il peggio, pensavo di averlo sentito nel 2015. No. Beh, ora 18 gennaio 2016 mi trovo a dover sentire. A parte che quella radio non capisco perché ancora non sia chiusa, questo è un mistero della natura. Ma è chiusa, umana. Non è chiusa perché ancora hanno i soldi per andare avanti, no? Ecco, questo è il primo problema, fatto con finanziamento pubblico, questo è il primo problema. Il secondo è che sentire quell'abominio lì, quell'abominio, quelle sono quelle ascoltatori nonnine, che chiamano, quei dai. No, non sono ascoltatori. Quelle persone miserrime che chiamano carichi di odio dicendo porcherie, volgarità, compiaciute da quell'altra testa Nobel per le idiozie, quel Nobel che è lì al microfono. Ma quel ce ne barì. Sono diversi, c'è anche il direttore, l'amico tuo Morelli. Non quei è che due tre, ecco, quei due tre Nobel per il giornalismo. Sono degli idioti praticamente, stai dando degli idioti a Varin, a Pellegrin. No, un momento, a cosa hai detto? Stai dando degli idioti. Solo? Varin, Pellegrin, Morelli. È riduttivo. È riduttivo, peggio degli idioti. Beh, Morelli, idiota. Mi stai ascoltando, Varin? Parenzo, siete peggio degli idioti. Ma siete no, animali, siete peggio. Bestie, siete maiali. No, perché maiali? Maiali. Che? Oh, ma maiale fa querela poi, oh, attento. Dai, su. Non devi offendere animali. Animali che servono. Oh. Cioè serve più l'animale, il porco, il maiale di Varin. Ma alla società. Non ho mai ritenuto maiale. Cioè, alla società adesso loro servono per fare il cinema, per fare propaganda. Loro come no? Servono purtroppo. Servono e come? Servono a fare propaganda alla loro radio, al loro odio. Ma è accettabile dire lo sterco per seppellire? Per fortuna è accettabile. Nelle società libere è accettabile ma anche è questo. Ma dove si può arrivare? Ma dopo comunque, quello, ragazzi, cosa stavo c'è? Dicendo degli animalisti. Gli animalisti, non so perché il Papa, nelle sue tante follie, ha pensato di offrire una giornata al circo ai migranti, alle famiglie dei migranti. Così ho letto da qualche parte. Il Vaticano, il Papa, eccetera. Insomma, per dare un segno, no? Dice, ha pagato una giornata al circo. Cioè, gli animalisti hanno rotto i coglioni anche a questo. Cioè, anche su questo hanno rotto i coglioni, anche al Papa, perché si è permesso di offrire una. Tu sei andato al circo recentemente? Come? Cioè, American Circus, il signor Togni, anche che ti saluta, che ho provato anche a chiamarlo prima. Togni, sei andato al circo? Sei andato al circo? L'ho anche pubblicato su Facebook, che è una roba segreta. Ho portato mia figlia al circo americano a Roma. Dunque, viva il circo, puoi dirlo chiaramente. Viva il circo. Come? Una grande istituzione. Il circo. Viva il circo. Poi circo. Gli elefanti, secondo te? Gli elefanti. Ma stai scherzando? Ma il circo è una delle. C'è tutto dentro. C'è l'arte dell'addomesticare gli animali feroci. C'è l'arte dei clown. Dunque, forza, c'è circo. Avanti, forza, tutta. Circo, avanti, andrebbe, tutta. Andrebbe aiutato con soldi pubblici. No, quello no. Ci sono quello delle no. arti pazzesche. Quello gli no. acrobati, gli attrezzisti. Vabbè, e la capacità di cavalcare i cavalli. Ma scusa, dicono che. Uno spettacolo itinerante. Sì, d'accordo, ma dicono che con i circhi quel tendone, Buonanno che salta nel fuoco crociano. Non c'è Buonanno. Beh no, perché non è ancora abbastanza bravo per saltare nel cerchio di fuoco. Ma io ad esempio, Ovi, sai quanto viene pagato ad esempio un domatore di leoni? Quanto viene pagato un domatore dillo, di leoni? E dillo, l'hai detto due volte. Lo sai o no? No, non pagato? Lo so quanto viene pagato. 30.000 euro al mese. Ma non ci credo. Ti assicuro? 30.000 euro al mese un domatore al di mese. Leoni. Al mese? Allora, perché? Ma tu sai farlo? No. Ci sono quei lavori che uno dice, lei ha pagato tanto. Lei sa sparare cazzate quanto me? No, quindi non verrà pagato tanto. Lei sa fare. No, è così. Lei sa fare la zanzara quanto me? Lei no. Sa fare la zanzara? No, quando saprà sparare tante cazzate, verrà pagato. Lei sa fare. Ha il coraggio di mettere la testa nelle palle del leone come io ho visto fare? Francamente no. E allora vai a fa culo, non verrà mai pagato. Però scusami un attimo, dimmi una cosa. L'elefante. Dicono che vengono sedati gli elefanti. Ma che se tu sei sedato? Ma che sedato? No, dicono che vengono sedati. Ma è meraviglioso. Io ho provato anche mia figlia, anche durante la pausa, tra una cosa, ho provato a farla salire. Ma anche si diverte? Secondo te, l'elefante è contento di stare lì? Cosa deve fare l'elefante tutto il giorno? L'elefante sta lì, viene applaudito da centinaia di bambini festati. Dumbo, bellissimo. Cazzo, cioè, dice, eliminare il suo Dumbo. Dicono che non sia il loro habitat naturale. Non è l'habitat dell'elefante. Cosa deve fare l'elefante? L'elefante l'ho visto lì, meraviglioso, a Roma. Gli viene dato da mangiare. Deve fare semplicemente un inchino ogni tanto. Ma dura 4 minuti quello sketch lì dell'elefante. E poi? È anche contento. Dice, e poi non fa un cazzo tutto il giorno. Ma viene applaudito in continuazione. Si dice, ha da mangiare, ha da mangiare, tutto. Ha da mangiare. Ha ovviamente da riposare, da dormire. Viene viene lavato, tutelato, il suo addestratore lo adora l'elefante. Senza l'elefante non potrebbe far divertire i bambini. L'elefante ti guarda anche un po' mezzo rincoglionito, ma non rincoglionito, ti guarda con quell'aria anche di sufficienza, come dire, ah, stupido umano, che vuoi salire su di me, io non faccio, faccio un caso tutto il giorno. E lì gli dici scusa, cioè, ecco, meglio che nella savana, meglio che nella savana, meglio la savana rischia la vita ogni giorno. Ma nella savana l'elefante non è che rischia la vita. Ma rischia la vita l'elefante, magari gli cade un albero di quelli baobab, per caso ne so, enormi sulla testa. Lì cosa gli può succedere? Niente, al massimo un bambino. Va bene, che cari, non ritira... cari amici, avete ma scherzi, avete ma... il vostro nuovo nemico, cari amici ma animalisti. Ma tu stai scherzando? Parenzo e l'elogio del circo. Fermi tutti. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene, vi voglio bene. La zanzara. Siete la spazzatura radiofonica italiana. Siete proprio una cosa abominevole, siete una merda proprio. Ad Atlanta oggi c'è un tempo di merda e un traffico incredibile. Meno male che ci sono i podcast. Sono da 23 minuti fermo a un passaggio livello a monte di merda. Mi veniva di dare una testata al passaggio livello. Ho messo la zanzara e mi sono calmato. Allora ragazzi, a proposito di follie animaliste, di cose senza senso, no, peraltro c'è di più da dire sul circo ancora. Un'ultima considerazione: è l'unico luogo in cui la famiglia, perché in genere lavorano tutti in famiglia, no? La famiglia, ognuno ha un talento. Per cui c'è il domatore di leoni, c'è l'acrobata, quello che allena i cavalli, e dove viene superato la cosiddetta raccomandazione familiare. Perché se sei bravo lavori nel circo, se no vai fuori dai coglioni. Quindi sì, è perfetto, è la migliore realizzazione delle abilità delle persone. Stai, prima stai alla cassa, poi dopo vai sul trapezio, poi dopo vai dal leone, poi dopo vai dal cavallo. Cioè, se non sai fare un cazzo, stai alla cassa. Però. Stai alla cassa, oppure diventi clown anche. Cioè, fai il circo è fondamentale. Tutti devono portare i bambini al circo e anche gli adulti devono andare al circo. Ma la cosa è fondamentale: il circo. L'elefante, il leone non può saltare. Che cazzo fa nella foresta il leone? Non salta quando deve andare. Certo che salta, solo che lì c'ha anche il vantaggio che non deve scuoiare vivi degli altri animali, no? Furbo. E mangia gratis. Mangia gratis. Follie animaliste. Abbiamo scoperto che a Milano, ma probabilmente c'è anche in altre città, ha aperto, non ce la faccio ragazzi, io non ce la posso fare, non, di fronte a certe cose. Da una parte penso che ci sia della genialità, perché questa è una rapina, cioè come rapinare legalmente delle altre persone basandosi sulla loro credulità, insomma, no? Sulla loro amore sconfinato e quasi patologico per gli animali. A Milano, dicevo, ha aperto un luogo, non dico un negozio perché non si può definire un negozio, una specie di club, di associazione che organizza, tenetevi forte amici miei, i compleanni degli animali. Cioè, se no, voi avete un sì, se voi avete un cane, un gatto, soprattutto i cani immagino, ma non è escluso con i gatti, anzi no, i cani, perché si chiama Bau Bau si chiama, si chiama Bau Bau questo club. Beh, organizza e volete festeggiare il compleanno, a parte che già capire qual è il compleanno del cane o dell'animale è complicato, non è facile, e volete organizzare un compleanno, beh, potete rivolgervi a questo luogo qui. Ora, cosa significa organizzare il compleanno? Io non lo capisco, perché uno che pensa al compleanno del cane e del gatto per me è matto. Lo voglio dire che è matto? Comunque, io, caro Parenzo, se sei d'accordo, alle 20 e 22, spero che sia aperto questo luogo, ma credo di sì, perché è aperto fino a tarda ora, per appunto per dare spazio alle patologie più interessanti dell'animo umano e delle persone, che si sfogano soprattutto alla fine della giornata lavorativa. Cioè, le follie escono fuori quando la giornata lavorativa è finita e uno dice: come posso organizzare alle 20 e 20 il compleanno del mio cane? Adesso a te non può venire in mente una cosa del genere. Cioè, no, una persona che ha un minimo di logica, cioè un minimo, dico, poi io sono un però pazzo scatenato. Però vorrei essere quello che ha pensato questa cosa. Tu dici: perché ti fotto i soldi in questo no, modo? Vorrei, no, fotto no, perché non fotti niente, fotto solo, legalmente. Vorrei essere il genio che ha inventato questa roba. La telefonatina la facciamo, dai, fatemi squillare il telefono di questo Bau Bau. Yes.

alla presidenza della Confindustria, che fino a qualche ora, al momento, si tratta dell'associazione dei cosiddetti padroni, volgarmente chiamati industriali, che di industria non hanno un cazzo. Negli anni 60 questa associazione non si sarebbe mai permessa di avere addirittura una radio, perché sono padroni. Ma che cazzo c'entra? Quindi io, con l'esperienza maturata nelle istituzioni, Parlamento Europeo, Regione, Senato, Parlamento allora Italiano, che cazzo c'entra questo? Punto a guidare la Confindustria. Ma non fai, sei un cazzone qualunque, più adatta, ma non è vero, sommando a questo i soldi che mi darà la Confindustria, si porterà così un'iniezione di democrazia all'interno di un'associazione altamente padronale e che non dovrebbe neppure esistere. Ma come non dovrebbe esistere? Ti candidi? Lo abbiamo detto, lo abbiamo. Mi candido, certamente, mi candido per sfasciarla, per distruggerla, per distruggerla. Negli anni 60 gente come voi sarebbe presa a calci nel culo a chiedere la carità per strada. Se tu entravi in università alla statale da me e dicevi sono della Confindustria, venivi preso a sassate, e ti occupavamo la fabbrica, tanto per non sbagliare. Anche se davi lavoro, ti occupavamo la fabbrica. Ma era incredibile, guarda. Come cazzo fa questo qua ogni volta a fare click così a introdursi nelle discussioni? Io non riesco a capire. Comunque, fermi tutti. Senti, ti voglio dire una cosa, Giuseppe. Sai perché mi piaci? Perché sei pazzo. La Zanzara. Cruciani è un malato che si deve far curare, perché per lui va tutto in vasca. Ancora voci dalla politica o presunta tale, caro Parenzo. Quella che tu magari ogni domenica, no, ascolterai in quel tuo, non dico circo perché non è un circo, ma insomma in quel tuo caravanserraglio, ma no, non si può dire nemmeno caravanserraglio, no. in quel tuo studio, diciamo, bravo, pacato, con molta, bravo, pacatezza, bravo, con no, molta calma, pacatezza. No, si discute, si ragiona. Si ragiona. La ragiona a te non piace. Ma no, ma piace anche. Cosa vuoi sentire? Sento adesso? Troppi cosa ragionamenti. Allora, la Biancofiore, no, non da te, non da te, la Biancofiore, signora Biancofiore, Biancofiore, che ha detto, credo, ospite della signora Merlino, sì, esattamente, che l'amore molto tra due gay è un amore artefatto. È un amore, io non ce la faccio quando sento queste cose. Artefatto. Sì, che è un amore diverso, cioè due uomini, due donne che si amano, hanno un amore diverso rispetto a quello che possiamo provare per la mia fidanzata, diciamo, per la mia compagna. Sì, per le tue molteplici fidanzate, comunque va bene. Beh, molteplici, magari ne ho una, che ne sai? Andiamo avanti. Magari ne ho una, magari ne ho una sola, non che ne sai? Non lo so, non lo so, va bene, dai. Come fai a sapere? Scusa, siamo in diretta? Sì, siamo in diretta. Ah, scusa, scusa l'imbarazzo, no, va bene. No, non c'è nessun imbarazzo. No, cioè, scusa, non volevo dire. Quello che tu provi... Siamo in esempio, onda sempre? Siamo in onda. Sì. L'amore che tu provi, l'affetto ormai, perché sono passati degli anni, l'affetto che tu provi nei confronti della tua compagna, no? No, no, puoi usare la parola amore, non è così. L'amore, dunque, la parola... L'affetto. L'amore che tu provi... No, sarà uguale a quello che prova, che cazzo ne so, Poli per il suo compagno, no, scusa, è eterosessuale. Poli, Riccardo Poli. Sì, che ne so... Per il suo compagno. Sì, no, ho fatto un errore. Perché, ma sai che so, quello che sospetto ce l'avevo? No, ma è eterosessuale, assolutamente. Oh, finalmente si è dichiarato Riccardo Poli, finalmente si è dichiarato. Ragazzi, io sono 6 anni che lavoro qua e ti assicuro che l'ho sempre pensato, però non ho mai avuto. Non sa che Riccardo Poli è un assistente del programma. Vado a cercare su internet. Grande collaboratore di questo programma, però il punto. Sai che non sapevo. Ma non è vero, stavo scherzando. Questa attenzione che ha sempre alla piscina, fisico, alle spalle, alla barbetta. non lo sapevo. Che cazzo c'entra? Sono tutti quelli che. Guarda che chi ha i pregiudizi sei tu. Comunque, l'amore tra Parenzo e la signora Zevi, no? Sì. Sarà uguale a quello che può provare, che ne so, ditemi un gay, dai, Malgioglio per il suo compagno, no? Ci mancherebbe. Sarà uguale, no? Ci mancherebbe altro. Allora, appunto, Biancofiore. Insomma, lì abbiamo visto un bellissimo esempio di amore, però diciamocelo seriamente, un bellissimo esempio d'amore artefatto, perché in natura non esiste una cosa di questo genere, esiste la famiglia naturale fondata, un uomo e una donna, non c'è dubbio, no, nel senso che non possono fare figli i tuoi uomini, in questo senso non esiste, scusate, ma voglio dire, ho capito, ma anche i preti non possono fare figli, però sono naturali anche loro, non è... ma non ce la faccio, ragazzi, non ce la posso fare. No, ognuno... A proposito della signora Merlino, sì, ma tu che sai c'è? Che mercoledì Berlusconi, cioè dico Berlusconi, sì, andrà dalla Merlino. Sì. Vabbè, no, presenterà il libro della Merlino. Ah, alle 18. Presenterà il libro della Merlina. Dico, applausi di Berlusconi. Con Edoardo Bennato. Io sarò lì. Ma chi se ne frega, ragazzi? No, ma chi se ne fotte? Sarà lì a intervistare Berlusconi. Ma tu scherzi? Bene, se vai a intervistare Berlusconi, ottimo. Ma scherzi, mica. Allora, fermo un attimo, fermo un attimo. Berlusconi, ragazzi, io divento pazzo però, perché Berlusconi che è tornato a parlare, no? E tornerà, come tu hai detto adesso, a parlare. Parla anche da tempo. Sì, parla da tempo, però è tornato un po' in piazza, in mezzo alla cosiddetta gente. Ha inaugurato il gazebo esatto. A Milano. Senti che cosa ha detto. Veramente siamo indietro anni luce, anni luce. Se sapessimo parlare anche alla piazza di internet come non abbiamo saputo fare, ed è comprensibile perché io vengo due generazioni prima di internet, adesso sto studiando, sono la terza lezione su 10 di internet, io internet non ce l'ho in simpatia naturalmente, poi in privato qualcuno racconterò qualche... Cioè dobbiamo... Dobbiamo. No, no, non ce la faccio nemmeno a dirlo. Sono la terza lezione su. Cosa c'entrano le lezioni di. Ancora c'è qualcuno che fotte i soldi a Berlusconi con internet. Cioè, ma questo è un genio. Come quelli che fanno i compleanni dei cani. Cioè, sono dei geni. Ancora c'è qualcuno che viene pagato fottendo soldi a Berlusconi per fargli le lezioni. Beh, magari lui di un uomo... internet. Ma no, ma su questo invece ma è un grande. Dai, su, ragazzi, ma io dico. È un signore di una certa età. Ma che vuoi? Però ma cosa sono le lezioni? Alla modernità? Ma cosa sono le lezioni di internet? Ma per un uomo degli inizi del Novecento. No, no, inizi del Novecento, no, ma che sarà del 40. Di che anno è del 38? No, ma c'ha 76 anni, 77, quello che è. Quindi, dai. Vabbè, insomma, comunque, per un signore della sua età. No? Forse non è facilissimo apprendere uso, mica tutti sono, mio padre ad esempio sa usare internet benissimo, anche mia madre usa internet, però sì, quella ma generazione è lì, patetico nel 2015 che no, quella è la terza lezione lì. Di internet, dai, cazzo, su alla terza gli lezione gli di internet. Ha dato atto che Berlusconi si interessa alla modernità, ma perché? Ma che male c'è? Io la trovo una su cosa questo, veramente patetica. Sto imparando internet, sono la terza lezione, la trovo ma su una questo è lodevole, sai che io anche sono anche ma primo. È anni uno che dovrebbe farlo, ma sei a capo di un partito, è stato a capo dell'Italia, non sai un cazzo di internet, ma no, ma usarlo materialmente, magari fare un tweet, che ne so. Io sono convinto ci sono tanti anziani che non lo sanno fare, appunto. Mirko è mica che governa il paese, però Mirko ma da Bologna, dai. Ho capito, ma è lodevole. Dai, Mirko da Bologna. Beppe. Dimmi. Dai un bel culo ad avere un imbecille così che ti fa da spalla, credi a me. Ma piacere, Parenzo. Perché Parenzo, lasciamo stare. Parenzo, io prego, mi chiamo allora. Parenzo, lei è imbecille? Ma ha detto imbecille, no, piacere Parenzo. Ma querelami pure, lei mi no, querela niente. Voglio imbecille, dire. Come si chiama lei? Imbecille. Mirko. Ah no, perché ho capito imbecille, io dico piacere allora, Parenzo, non avevo capito. Allora, Parenzo, cosa facevi all'università? Il bidello? Il bidello sì, ho fatto giurisprudenza ma non ho finito. Ah, ma si vede, lo dimostri proprio in tutto e per tutto. Ma non puoi dire delle cazzate sulle famiglie circensi. Cioè, che ha detto di straordinario? Ah, sul circo. Cosa circo? Ha detto? Straordinario prego, il circo. Straordinario. Passi, Parenzo, perdona. Sì, passi sì. Il fatto dimmi, che fai Marco. Le marchette al tuo editore per il no, Sassuolo. Te lo si concedo. Chiama ironia quella, però. Passi, passa il fatto che non capisci cos'è l'ironia. Però. Vabbè, dai, Mirko, vai, andiamo no, avanti. Non capisci cosa vuol prendere in giro l'ironia. 30.000 no, stai offendendo sul artisti. Circo sul, ma guarda che ha elogiato gli artisti del circo ma, certo. Ma no, io no, li ha offesi ma perché li ha offesi, scusa perché il circo è alla fame pare il circo è alla fame infatti, e infatti allora? E tu mi spari la minchiata che questi pigliano 30.000 euro ah quello no, so, infatti dai, ah pare, guarda che Beppe, scusami i domatori ascolto, no Mirko, io infatti ho espresso molti dubbi sul fatto che i domatori dei leoni guadagnino 30.000 euro al mese. Secondo me non è vero, non è così. No, sono minchiate. Ma tu fai il domatore? No, fai il domatore? Non, che fai? Non faccio il domatore, ma sono molto vicino alla famiglia circense, per ovvi motivi non ti faccio il nome. Sono al corrente. Ovvi motivi, non è che, ma che è la mafia, è l'andrangheta che no, è? Cioè. No, non serve, non importa. Vabbè, però allora alla fine non ho capito. Non arrivo adesso alla fine ti dico mese. Una delle cifre esatte no, che ho sentito, aspetta. Vabbè, che Mirko, indagheremo. Però il circo è fondamentale. Va sostenuto, vabbè, ma quello, vabbè, va quella è un'altra cosa, dai. Appunto. Fermola, adesso parliamo di un'altra cosa perché siamo alle grandi inchieste della Zanzara, quelle che piacciono tanto a Paolo Liguori e ad altri ovviamente. Le grandi inchieste, beh è un'inchiesta che va avanti da un po' di tempo caro Parenzo, no? Cioè le nuove forme di società, le nuove sì. Forme di famiglia, i nuovi amori. insomma, sì, la società italiana che si trasforma. Nei giorni scorsi abbiamo parlato molto di poliamore. Di poliamore. Beh, sì. Sentendo una signora, per esempio, abbiamo sentito diverse persone. Abbiamo sentito una gentile signorina, non mi ricordo da dove, Elisabetta, non mi ricordo come si chiamasse, eccetera, la quale ci ha spiegato alcune cose interessanti. Te ne faccio sentire alcune così per ricordarci. Sì. Diciamo che l'abbiamo scoperto per caso, cioè? 5 anni fa, praticamente mio marito mi dice: ma vuoi fare un massaggio? Mm. E quindi ho fatto questo massaggio, io ero nuda e lui praticamente ha assistito al massaggio di questo massaggiatore, insomma, sì, che mi ha fatto, e da lì è scoppiato. Ma il massaggio è finito lì o è proseguito facendo del sesso? Il massaggio è finito lì. Poi ci siamo parlati una settimana dopo, eravamo lì e la situazione si è conclusa in modo diverso. Cioè, la settimana dopo ti ha riportato dal massaggiatore e stavolta, esatto, diciamo, praticamente hai scopato col massaggiatore. Esattamente. Davanti a lui? Sì. Davanti a mio marito. Davanti, esatto, a tu. Dunque, esatto. E quello guardava. Piace da moltissimo vederlo scopare con altre, no? O sbaglio? Assolutamente sì. Oh, benissimo. Assolutamente sì. Sei innamorata di tuo marito? Ogni tanto provi delle passioni per altre persone? Sì, passioni non solo sessuali, anche intellettuali, eccetera. Soprattutto. Ma questo è perché uno si deve limitare in queste cose. Esatto. Hanno deciso di non limitarsi. Abbiamo con noi un esponente, chiamiamolo così, Parenzo, ma sì, uno che pratica il poliamore, di origine messicana, ma graniticamente in Italia, si chiama Leonar, se non sbaglio. Buonasera. Ciao, buonasera. Come stai? Bene, a posto, fa un po' freddino a Milano, però sono a posto. Leonar, ma tu sei sposato? No. Sei single? Ho un partner. Sei un partner, cioè hai una partner? Sì, non potrei dire né che sono sposato né che... Sì, no, nel senso, sono un rapporto stabile con una persona. Hai un rapporto stabile con una persona. E insieme avete altri rapporti stabili, o no? E abbiamo altri rapporti stabili quando capita. In questo momento diciamo che nessuno dei due sta avendo altri rapporti stabili e significativi. Però non solo usciamo con altra gente, ma inoltre è anche capitato già lungo il nostro rapporto che ci siano altri rapporti stabili, in effetti. Certo. E naturalmente che tutti sanno tutto. Sì, assolutamente. Non solo tutti sanno tutto, ma è anche una cosa che diciamo subito, nel senso che da quando conosciamo le persone, anche quando stiamo appena uscendo, ci stiamo appena conoscendo con la gente, e subito diciamo: senti, io sono già insieme con quest'altra persona, e qualche giorno potrei voler conoscerti, questo tipo di cose, nel senso, in maniera di tenere tutto aperto, ma anche che l'altra persona si senta rassicurata, che non è una cosa losca o strana. Scusami un attimo, ma molti ci hanno detto in questi giorni: no, ma qui che c'entra il poliamore? Qui è semplicemente scambismo, orge, certo, cose di questo tipo. Per esempio, Parenzo la pensa così, che penso che in realtà la questione, diciamo, dell'affetto, del legame. Penso che se al signor Leonar piace che la sua fidanzata, quella con cui sta di più, no? Sotto i suoi occhi, sia, diciamo, posseduta da un amico del signor Leonar. Trombata, anche si può dire, in maniera... Con tutto rispetto per le sue origini messicane. A te non piace, d'accordo? A te questa cosa. Però non vieterei mai. Però non venitemi a dire. Va bene, ma un attimo, nel senso che sicuramente il punto di partenza è che lei è interamente libera di avere queste cose, nel senso di cercare altri rapporti, di svilupparli e di avere anche una vita sessuale con questi altri rapporti, eccetera, eccetera. Come se avesse un altro ragazzo, diciamo, come se stesse insieme un'altra persona. Sì, e come fate a conciliare tutto? Spiegami. Il discorso è che da lì a essere io presente nello stesso letto accanto mentre che lei, e questo è una cosa che sicuramente non è, cioè intanto non è che non è una regola, dici, allora non è una regola, esatto. Non è una regola, questo è importante dirlo, perché esatto. Perché non è che tutto va a finire in orgia, non è che tutto va a finire ad ammucchiata, questo è il punto, no? E infatti personalmente in un'orgia non ci sono mai stato, vedi, questo qua è un poliamoroso che non fa orgia, dunque smentisce tutti i luoghi comuni che abbiamo, già un passo in avanti. È che la sua compagna non è contento, star con lui, ma non a vedere un film su Netflix, su Sky, perché su Netflix adesso, non lo so, oppure come si chiama quell'altro lì, quella pubblicità, come si chiama, Sky, ecco, quella roba lì, o la Rai, ovviamente, o la 7, anzi, la 7, anziché di stare davanti alla televisione, è contento che la compagna, nello stesso momento in cui lì è sulla 7 a vedere la trasmissione, la sua compagna sta con un altro, sì, a divertirsi, no, in un però, letto, non è farsi montare. Mi fa schifo. Se gli piace a lui, perché gli piace, esatto, che poi che di essere cornuto e vive cornuto. No, ma la parola cornuto, allora, non esiste nel poliamore. Esatto, cioè, io personalmente, esatto, non dirò questa è una cosa che farei, ma in nessun momento dico vabbè, ma che schifo, cioè nel senso è una cosa che non fa per me e basta. Io mi fermo veramente lì nel dire vabbè, sono contentissimo che tu riesca a farlo, che la cosa sia aperta e che tutti siano d'accordo e che sia una cosa alla fine della fiera etica. Poi fai quello che ti pare, cioè, vabbè, etica adesso perché per voi l'etica per è semplicemente dirvi tutto? L'etica è... E non mentire, più che non mentire. Esatto, non mentire, nel senso nessuno sta essendo tradito, nel senso che nessuno sta mettendo la fiducia su qualcosa che poi non succederà dietro le quinte. Scusa, io oggi tu hai una partner, no? Con quante persone, quante altre persone frequenti? Io in questo momento sto frequentando due. Altre due persone? Poi, non ho tantissimo tempo, sì, esatto. Beh, non hai tantissimo tempo, amico mio. Cioè, se avessi tanto tempo, che faresti? Cioè, scusami, La giornata 24 ore, quindi effettivamente... Okay, ma dovrai lavorare, ma che cazzo che sei? Dovrai lavorare, o no, Leonard? Sì, esatto, assolutamente. Lo tu stai frequentando, sì, stai frequentando altre due persone. Dunque, lei sa tutto, lei sa tutto. Sì, sì. E, però non... cioè, voglio dire, voi... il sesso, quanto è importante in queste robe? Preponderante, importantissimo. Beh, noi siamo, direi che noi siamo entrambi persone abbastanza sessuali, quindi ci piace che ci sia una dimensione sessuale nelle cose. Comunque non è la cosa primordiale, pure se, per esempio, io non sono, nel senso, non è che il poliamore automaticamente vuol dire che non c'è gelosia. Io sono geloso, e io sono geloso in una maniera sessuale, potrei addirittura dire cliché o messicana. Nel senso che a me fa geloso il fatto che il mio partner abbia rapporti sessuali allora, con un'altra persona. Come? La gelosia dovrebbe essere eliminata? Che... No, no, non deve essere eliminata, basta che sia gestita. È lo stesso che... cioè, lo stesso cioè che sei, geloso, ma ti sei geloso ma ti rendi conto che è inevitabile alla fine. Sono geloso e allora nel momento nel quale succedono certe cose io semplicemente devo prendere un attimo che mi tranquillizzo e poi in realtà sono a posto, nel senso sto benissimo. E posso parlare anche di quello lei, che lei nello in questo momento in que- che certo vi raccontate anche le vostre storie sessuali, ve le raccontate o no? Sì, questo è sì, lui alla radio a cazzeggiare con noi, la sua compagna chissà che cosa sta facendo con altre otto persone. No, ma di cosa stiamo parlando di ragazzi, quante altre persone frequenta quante altre persone frequenta la tua compagna? Non ne sono sicuro perché in questo momento dovresti lei... saperlo. Sì. Non è che devo sapere in ogni istante cosa no, sta ma facendo adesso con in questo periodo ha una relazione stabile però in maniera più o meno fissa che io sappia sta vedendo un'altra persona persona siete praticamente tu e altre due e lei con un altro in questo momento la grande famiglia di Leonard. Un abbraccio, poliamore tutta la vita, ciao, andate a fanculo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, casa, lei lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.